C'è qualcuno di un'altra dimensione qui tra di noi? C'è qualcuno tra di noi? Sì, ragazzi, sì. Come ti chiami? Zivago, dottor Zivago. Shh, stupido, vuoi comunicarci qualcosa? Sì, voglio comunicare qualcosa. Aspetta, fermi tutti, fermi, fermo anche lo spirito, fermi. Ragazzi, sono le 15:30, comincia la diretta in combat fra un po'. Che facciamo? Salutiamo lo spirito, basta, continuiamo un'altra volta la seduta spiritica. Va bene, allora salutiamo a tutta lei, Zivago. Festival della letteratura sociale, in onda ogni domenica dalle 15:30, con la diretta Poiuit, lettere contrarie, gombat.noblogs.org, ridimensiona l'importanza. Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This is your boy T-Mike. See, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Direi che è il modo più bello per viaggiare. Holly came from Miami, FLA. Buon pomeriggio, buonasera, buon pomeriggio, buon tardo pomeriggio a tutte e tutti e benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata di domenicale di Poiuit, Lettere Contrarie, la trasmissione di Radio Wombat dedicata alla letteratura. Oggi andiamo in onda a questo orario inconsueto perché abbiamo volentieri lasciato spazio il pomeriggio alla diretta fatta da Piazza Santo Spirito e dal mercato il Santo Spirito. Quindi oggi in differita alle 18, le repliche sono sempre le stesse, come sempre potremo da stasera riascoltare il podcast di questa trasmissione di oggi sul sito wombat.noblogs.org, fra l'altro tutti sintonizzatissimi perché prestissimo cambierà anche l'indirizzo del sito, lo stiamo infatti rifacendo nuovo, però intanto oggi una nuova puntata della trasmissione dedicata alla letteratura e più precisamente a quella letteratura portatrice di una cultura libera, solidale e critica della società capitalista in cui viviamo. Allora, ricordo a chi ci ascolta che come sempre ci potete contattare oggi in diretta o nei prossimi giorni all'indirizzo postawombat@insiberia.net oppure sul pad, il cui link è ormai sparito dalla prima pagina della radio, ma tanto siamo in rifacimento, e che allora vi ricordo io è rafanu con la u.vado.li, rafanu.vado.li. Lì ci potrete scrivere, leggiamo quello che avete da dire a me e all'ospite di oggi. Infatti non sono solo, ma accompagnato, e sono anzi ben accompagnato. Benvenuta, Paquita. Aloha. Allora, ti sentiamo benissimo. Bene. Ciao Paquita, benvenuta. Ciao. Qua in diretta a Poiuit. Paquita, beh, io direi che se sei d'accordo mandiamo subito un audio e torniamo rapidi a parlare con te e della puntata di oggi, ma magari annunciamo soltanto prima di cosa parleremo oggi in questa puntata. Parleremo di teatro e in particolar modo di chi fa teatro in luoghi non consueti e non teatro classico. Avremo anche degli audio che hai registrato nei giorni scorsi, un'intervista di cui manderemo alcuni stralci. Tutto questo lo faremo fra pochissimo, subito dopo avervi fatto ascoltare i consigli di lettura delle autrici ospiti la scorsa settimana alla puntata conclusiva della doppia puntata del ciclo dedicato alla nuova poesia fiorentina. Ascoltiamo i loro consigli di lettura, invitiamo come sempre tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici a mandarci i loro alla messaggeria del Wombat, il cui link è da qualche parte sul sito della radio, oppure inviandoci gli audio al solito postawombat@insiberia.net. Ma adesso ascoltiamo quali sono i consigli delle ospiti della scorsa settimana e poi torniamo qua in diretta su Poio It con Paquita. Ciao, sono Eleonora, grande lettrice e scrittrice, e voglio consigliarvi 5 titoli che mi hanno reso felice, di generi diversi, così ognuno può trovare quello che gli aggrada di più. Il primo è L'arte della gioia di Goliarda Sapienza, si tratta di un romanzo. Altro romanzo è Donna Flora e i suoi due mariti di Amado. Poi c'è un libro di poesie, 100 poesie d'amore per Lady O di Michele Mari, un altro romanzo di uno scrittore inglese ironico che amo tantissimo, David Lodge, Notizie dal Paradiso, e infine Guida Galattica per autostoppisti di Douglas Adams. Buona lettura a tutti. Bene, ciao a tutti, sono Enrico Cavalloni, e tra poco usciranno delle mie poesie sulla nuova antologia di Affluenti, e ho qui 5 libri da consigliarvi. Il primo è Il silenzio è cosa viva di Chandra Livia Candiani, è un saggio sulla meditazione che trovo estremamente potente, anche per il fatto che l'autrice è anche poetessa, e quindi il suo modo di scrivere è profondamente evocativo. Il secondo, La gioia di scrivere, di Wisława Szymborska, è un'antologia di raccolte di questa poetessa polacca, che trovo meraviglioso per l'ironia, la leggerezza con cui riesce a trattare dei temi davvero, di cui è davvero difficile dire qualcosa. Il terzo libro è Dialoghi sul Judo di Giuseppe Tribuzio, che in forma di dialogo platonico parla dei temi che sono alla base della filosofia e dell'etica della disciplina del judo, e può interessare chiunque sia appassionato di educazione. Il quarto è il Tao Te Ching di Lao Tzu, insomma, anche egli parla dell'indicibile, e ecco, ne ho trovato pochissimi eguali, ecco, in quanto a efficacia. E l'ultimo è un romanzo, Norwegian Wood, di Haruki Murakami, un romanzo di formazione che mi ha accompagnato in un viaggio molto appassionante, e quindi ve lo consiglio. Ciao a tutti, mi chiamo Mira, autrice di Affluenti Nuova Poesia Fiorentina. Da lettrice della domenica vi consiglio questi libri, ma c'è un ma, non esporrò tra messi nostri, ma i miei incontri e le relazioni con questi scritti. Il primo libro l'ho rubato nella sala d'attesa del mio dentista come piccola vendetta personale alla sua riluttanza a sottopormi ad anestesia. Mi sono innamorata immediatamente di questo libro di Sylvia Plath, un po' sconosciuto e molto molto piccolo, che è autore donna. Sono le sue poesie di gioventù. Il secondo è L'età di Lulu di Almuneda Grandes, ed è un libro della forte tensione erotica, ed è stato il mio primo incontro con le alcove letterarie. Il terzo invece è Il maestro e Margherita di Bulgakov, e ha un effetto molto più potente di qualsiasi sostanza psicoattiva, perché la presenza di nomi, soprannomi, nomignoli, come tendenzialmente fanno tutti gli autori russi, dà un grande stordimento. E questi sono i miei libri preferiti. Vi saluto. Ciao a tutti, io sono Sara Moran, e i libri che vi consiglio oggi sono rispettivamente una raccolta poetica, un romanzo e un manuale. Il primo libro, la raccolta poetica, è Erba francese di Giorgio Caproni, che è uno dei poeti contemporanei che preferisco. È una sorta di diario impressionista scritto in occasione di un viaggio a Parigi nel 1978, compiuto con Mario Luzi, Delfina Provenzali e Vittorio Sereni, ospiti del centro Georges Pompidou del Beaubourg. Il secondo libro è un grande classico, è Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, perché soprattutto con l'emergenza Covid-19 sembrava di stare in un romanzo distopico, fantascientifico, e la prima cosa che ho pensato, ma non proprio la prima, però ho avuto la tentazione di imparare un libro a memoria, devo essere sincera. E il terzo volume, il terzo libro, infine, è un manuale di Massimo Acanfora che si chiama Colpiamo la città, orti da balcone e giardini urbani per contadini senza terra. È stato edito da Ponte alle Grazie per Alta Economia Edizioni. E è un libretto che insegna appunto come coltivare in poco spazio della verdura, erbe aromatiche e quant'altro, perché penso appunto che il ritorno alla terra, anche onorare la natura che in questo momento è in pericolo, sia uno degli imperativi che come umanità in qualche modo abbiamo. Ora detto così un po' sentenziato, però importante è questo. Buona lettura a tutti. Ed eccoci di nuovo in diretta su Poi You It, lettere contrarie. Grazie, grazie tante a tutte le autrici, gli autori e i loro consigli. Erano le voci di chi faceva parte della, che abbiamo intervistato la scorsa settimana, di chi fa parte della prossima antologia della nuova poesia fiorentina, che sarà pubblicata a breve da Affluenti. Abbiamo dedicato a questa ben due puntate, le scorse due, le si possono riascoltare in podcast sul sito della radio. Ma oggi un po' rimaniamo nello stesso tema, ovvero quello della poesia, un po' ci spostiamo parzialmente di arte verso il teatro, perché siamo assieme a Pachita. Ciao Pachita, sei sempre con noi? Sì, E ciao. funziona tutto. Dunque, Pachita, qualcuno l'ha già sentita probabilmente ai microfoni di questa radio, anche perché organizza e coordina il laboratorio teatrale Post Work, che si svolge in Polveriera, o meglio, si svolgeva in realtà fino all'inizio del periodo del confinamento dopo la pandemia. Allora, Pachita, io ti vorrei chiedere intanto due parole sul laboratorio Post Work e anche su che cosa significa fare teatro in uno spazio sociale autogestito come è la Polveriera di Firenze. Ok, allora il laboratorio Post Work è nato non solo con me, ma anche con un'altra persona, con Andreas. E l'idea è stata quella di fare un teatro più rivolto alla comunità, un teatro partecipativo, e come diciamo prima regola è a quella di far incontrare le persone. Per questo è nato in Polveriera, perché ci è sembrato un posto di incontro di persone diverse. E infatti il laboratorio è nato da poco, comunque è nato verso dicembre, abbiamo iniziato a vederci e subito abbiamo avuto un bel riscontro, perché hanno iniziato a partecipare persone che già magari conoscevano la Polveriera, insieme ad altre persone che non erano mai entrate, chi di solito sta nel loggiato, oppure persone completamente strane, perché la nostra idea è quella di unire le nostre esperienze. Quindi un po' una conduzione di teatro più orizzontale, non quella tipica, diciamo, del teatro classico e contemporaneo, ma quella di sperimentare insieme. E i primi a sperimentare siamo stati noi, io e Andreas, perché abbiamo unito le nostre esperienze. Io vengo più da una formazione di teatro sociale, ho fatto una scuola di teatro sociale qui a Firenze che si chiamava Isole Comprese, che adesso insomma non c'è più perché io sono un po' vecchia, non si sente, non mi vedete, ma in realtà chi mi conosce sono proprio giovanissima. E insieme ho unito altre esperienze che avevo di teatro più contemporaneo, però mi ha colpito molto in questo tipo di teatro che molti chiamano sociale perché si fa insieme alle persone magari problematiche, le persone, cioè parlo di pazienti psichiatrici, quindi in posti, si fa anche in posti particolari oppure in carcere, dove non è facile arrivare, non è facile entrare ed uscire, e quindi entrare anche in carcere è una cosa che mi ha sempre stimolato, nel senso di arrivare a fare qualcosa in una realtà dove purtroppo non è accessibile a tutti, nel senso che per fare qualcosa di serio o comunque semplicemente per fare qualcosa devi avere già una bella formazione alle spalle e comunque stare dietro magari ad associazioni. E questo era un piccolo dettaglio perché diciamo la cosa che mi ha, l'esperienza che mi ha colpito di più è stata quella di fare teatro dell'oppresso in carcere, perché il teatro dell'oppresso è una parte della mia formazione. Allora, io se sei d'accordo farei una parentesi qui per spiegare un po' che cos'è il teatro dell'oppresso a chi ci ascolta. Sì, praticamente il teatro dell'oppresso nasce con Augusto Boal, che è il fondatore, durante la dittatura in Brasile, che inizia a pensare a un modo diverso di esprimersi perché non gli andava più bene quello che c'era prima. Ora, per fare una sintesi, dico che lui si ispira alla psicologia dell'oppresso di Freire, che parla di coscientizzazione delle persone, quindi dello stimolare nelle persone una coscienza, farli riflettere su quello che sta succedendo. E quindi il periodo della dittatura, dove molte cose non erano permesse, questo è stato un teatro per ritornare a dire la propria e non semplicemente a fare arte come intrattenimento. E nel teatro dell'oppresso ci sono varie tipologie in cui si può fare uno spettacolo. Una di queste è il teatro forum, e poi c'è il teatro invisibile e il teatro giornale. E il teatro forum è diciamo la forma che ho praticato io di più, che è quella di creare una scena in cui sono evidenti gli oppressi e gli oppressori. E in questo tipo di teatro praticamente gli spettatori possono diventare partecipanti e diventano spettatori. A un certo punto il regista, che nel teatro dell'oppresso si chiama Jolly, interrompe la scena e chiede al pubblico di partecipare non dicendo la propria opinione ma mettendola in scena. E in questo modo le persone entrano a far parte del teatro, quindi provano delle emozioni. E Boal parlava di questo tipo di teatro come una palestra di allenamento. Cioè, io sto subendo un'oppressione, che cosa posso fare per cambiarla? La cosa importante è che questo tipo di teatro si rivolge ad una comunità, cioè un modo per creare una riflessione tutti insieme. Quindi dopo questa scena, dopo che una persona entra nella scena, si può continuare a discutere di quello che è successo e di come si può migliorare la società, quindi quello che non ci va bene, come possiamo migliorarlo. E io lo vedo sempre attuale questo, questo tipo di teatro, soprattutto ora, in questo momento storico. Grazie intanto per questa chiarissima spiegazione, e a proposito sempre di teatro dell'oppresso e di chi lo reinterpreta nei contesti sociali, anche qua e là diciamo per il mondo, e magari come te lo sviluppa anche in un modo personale, calato sul contesto, c'è la persona che hai anche intervistato nei giorni scorsi, che è Angelo Miramonti, i cui audio vogliamo mandare fra un po'. Solo per annunciare di chi stiamo per parlare, poi magari facciamo sentire una canzone e ritorniamo con te, con l'intervista che hai realizzato. Chi è Angelo Miramonti? Sì, allora, Angelo Miramonti è un esperto di teatro che poi ha iniziato a fare teatro dell'oppresso, però in realtà ha una formazione mista di, sia di educazione che di teatro, e ha fatto teatro in vari posti del mondo, me li sono scritti perché sono tantissimi, cioè Ungheria, Guatemala, El Salvador, Nigeria, Senegal, Zambia, Sudafrica. E a un certo punto della sua vita lui ha deciso di viaggiare, cioè di viaggiare per il mondo e fare teatro in luoghi un po' scomodi, come quello della Colombia, dove è attualmente e da dove inizierà la mia intervista. Lui, come appunto dicevo, ha sviluppato un po' il teatro dell'oppresso, perché Boal era molto favorevole alla sperimentazione e al mischiare anche metodi diversi, quindi è partito dal teatro dell'oppresso per arrivare ad altri tipi di teatro, teatro del testimone, teatro della riconciliazione, ma in realtà proprio a mettere insieme le varie arti, perché Boal intendeva il teatro dell'oppresso come un albero con vari rami, e ogni ramo è una forma di teatro di cui parlavo prima, cioè teatro invisibile, teatro giornale, teatro legislativo, che è un'altra teatro forum, e questi rami si possono aumentare e si possono sviluppare. Quindi lui li ha sviluppati e adesso sta sperimentando queste nuove forme. È stato appunto raggiunto da te a telefono, manderemo alcuni estratti da questa intervista fra non molto, anzi fra pochissimo, fra 3 minuti, dopo che avremo fatto sentire la prima delle canzoni che ci hai portato. Antifa Dance le ha scelte anche oggi Paquita, la nostra ospite, come in tutte le puntate scorse. Lasciamo scegliere la musica della puntata a chi è a questi microfoni. Yuhu! Yeah! Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha, descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Papagay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Papagay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Internacionalista Dance Popular. Papito. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Tocan el pueblo. Internacionalista, anticolonialista, contra dominación, antifa, antifascista. Necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. ma. Allora, sempre qui in diretta su PoiUIT, lettere contrarie, abbiamo promesso questa intervista registrata da Paquita qui con noi ad Angelo Miramonti, si articola in tre domande di cui abbiamo stralciato alcune parti. La prima ve la mandiamo in onda subito con la domanda di Paquita e la risposta e poi torniamo qua in diretta per commentare un po'. Buon ascolto. Quindi io partirei con la prima domanda, quindi io so già che tu ti dividi tra l'Italia e la Colombia e quindi stai facendo dei progetti teatrali con gli ex combattenti e mi piacerebbe insomma sapere com'è nata questa idea di lavorare con loro e se ci puoi spiegare come si svolgono questi laboratori, questi progetti. Sì, allora, io avevo deciso di dedicarmi al teatro a tempo pieno, dopo averlo fatto, diciamo, come hobby, come attività secondaria per molti anni, avevo deciso di dedicarmi a tempo pieno e volevo andare in un paese dove potessi applicarlo con persone che avevano vissuto dei conflitti armati. È un tema che mi ha sempre interessato, quello delle guerre e dell'arte, no? di come l'arte può accompagnare le persone a incontrare se stesse, in dei processi di riconciliazione, qualsiasi cosa la parola possa voler dire per ogni persona che ha partecipato a un conflitto. Quindi è stato forse un caso fortunato che la Colombia abbia firmato degli accordi di pace con il più grande gruppo combattente nel novembre 2016, che questo gruppo sono le FARC, una guerriglia di sinistra con la quale il governo colombiano era in guerra da 52 anni, senza contare poi violenze precedenti alla guerra ufficiale. Quindi questo mi ha motivato a scegliere la Colombia, sia perché c'erano degli accordi di pace appena firmati e quindi gli accordi prevedevano la demobilizzazione, quindi il ritorno alla vita civile di molte migliaia di combattenti della guerriglia, quindi erano persone che da poco avevano lasciato le armi. Ho pensato che insieme a tante altre cose che avevano bisogno, anche dei processi creativi e teatrali, autobiografici, sarebbero potuti essere utili per queste persone e utili a me per imparare da loro. E così ho preso contatti con diverse organizzazioni, gruppi che lavoravano sulla costruzione di pace in Colombia e sono partito. Ho anche avuto la fortuna di poter insegnare teatro comunitario in un'università colombiana dove c'era una cattedra di teatro comunitario ed erano interessati in particolare alle tecniche di Boal, di Augusto Boal, quindi al teatro dell'oppresso, e quindi sono stato poi assunto anche come docente universitario di teatro comunitario. All'interno dell'università ho fondato un gruppo con gli studenti che si chiamava inizialmente Teatro per la Riconciliazione, successivamente abbiamo deciso di cambiare il nome, di chiamarlo Arti per la Riconciliazione. Questo è un gruppo di ricerca che appunto fa ricerca su metodi creativi, tecniche artistiche di vario tipo, inizialmente con il teatro, ma poi siamo passati anche alla letteratura, alla poesia, ai murales, l'autoritratto, la danza, eccetera. Quindi ci siamo estesi un po' a tutte le arti. Ricerca metodi creativi artistici per accompagnare processi di riconciliazione. Riconciliazione significa non necessariamente con un conflitto, diciamo, politico come quello, il conflitto armato colombiano, ma può essere anche riconciliazioni con la propria storia personale, riconciliazioni con il proprio intorno familiare, comunitario, eccetera. Quindi si applica a qualsiasi contesto, di fatto a qualsiasi persona. Si può applicare nel carcere, si può applicare in centri di salute mentale. E si può applicare chiaramente con ex combattenti e vittime di un conflitto armato in un paese. Quindi da lì è nato, cioè da questo mio desiderio è nato questo gruppo. Le attività concretamente sono laboratori dove partecipano sia studenti di teatro e anche di arti, studenti colombiani, partecipano ex combattenti oppure vittime, cioè vittime definite come vittime della legge colombiana, quindi che sono state direttamente interessate dal conflitto armato, e altre persone interessate in costruzione di pace attraverso l'arte. Quindi abbiamo anche persone, che vivono a Cali, nella città dove io sono insegnante, e che partecipano, i laboratori sono gratuiti per tutti e chi vuole partecipa, non è richiesta nessuna conoscenza artistica ovviamente, e quindi sono anche dei laboratori dove gli ex combattenti non sono da soli, non sono solo loro, ma è un luogo dove possono essere ascoltati anche da persone che non hanno mai incontrato un ex combattente faccia a faccia, non hanno mai riconosciuto l'essere umano al di là dell'etichetta, no? Della categoria. E quindi sono spazi dove l'ex combattente può condividere le sue storie, le sue situazioni, può incontrare anche le vittime. Chiaramente questo non è sempre un incontro facile, però anche studenti, a volte anche di classi medio-alte, possono incontrare persone che hanno scelto di far parte di gruppi armati o capire anche in che circostanze hanno fatto quella scelta. Quindi anche persone che vengono dall'estrema povertà o da reclutamenti forzati, magari sono entrate armato quando erano ancora minori, eccetera. Quindi è un spazio di dialogo e ascolto reciproco, no? Non esclusivo per ex combattenti, ma è un luogo di incontro. E poi è aperto a tutta la cittadinanza, quindi mette insieme l'Accademia, quindi l'Accademia di Arti, le persone che sono legalmente ex combattenti, quindi che hanno lasciato le armi, e persone interessate al tema, no? Quindi diciamo la cittadinanza, la comunità. Quindi questi tre poli, accademia, persone direttamente toccate dal conflitto e la cittadinanza sono un po' i tre gruppi di partecipanti. Le riunioni sono solitamente al sabato, riunioni interne al nostro gruppo, e poi noi andiamo durante la settimana a lavorare con diverse popolazioni colpite dal conflitto. Quindi abbiamo, in questo caso durante la settimana, a volte andiamo in tre o quattro del nostro gruppo a condurre laboratori, spesso teatrali, ma a volte anche di altre arti, con gruppi questa volta specifici. Quindi possono essere tutti ex combattenti della guerriglia, oppure tutti o quasi ex membri di gang, di gruppi armati, di delinquenza comune, oppure legati al narcotraffico, oppure possono essere anche, abbiamo fatto dei laboratori in un centro di salute mentale. O a volte anche con adolescenti in zone particolarmente a rischio della città. Quindi il nostro lavoro è riunirci tra di noi, le persone interessate, formarci, conoscerci, costruire il gruppo tra noi. Questo avviene il sabato. E poi durante la settimana abbiamo diversi appuntamenti in cui conduciamo laboratori creativi con popolazioni più definite, no? Quindi lavorando con gli ospedali, con il comune, con educatori locali, eccetera. Sono vari contatti che costruiamo volta per volta. E questo è il nostro lavoro attualmente. Poi il mio sogno è di andare oltre la Colombia, per cui adesso sempre con questo format di Arti per la Riconciliazione vorrei, appena sarà possibile, svolgere un laboratorio di 2 settimane in Siria, sempre su temi del conflitto, ma in maniera molto, chiaramente il conflitto in Siria è ancora in corso, quindi diciamo con molta prudenza, però lavorare anche su questi temi in Siria e possibilmente in altri paesi, chissà, magari alcuni paesi africani in guerra come Mali, Repubblica Centrafricana, Congo, eccetera. L'idea è di utilizzare l'arte come per accompagnare processi di presa di coscienza di tutte le parti di un conflitto, no? Di chi è ex combattente, di chi è vittima, di chi magari vive nel paese ma non è mai stato toccato direttamente dal conflitto. Quindi questo è il lavoro che sto tentando di costruire. Questa era la voce di Angelo Miramonti che, come abbiamo sentito, parla delle sue passate e delle sue prossime esperienze laboratoriali, poetiche e politiche fatte, che saranno fatte le prossime, come abbiamo sentito, in Siria, altre in passato invece che sono state svolte anche, in vari posti del mondo, fra cui il Sud America, fra cui l'Africa. Ci parlavi prima, anzi mi parlavi in realtà prima che iniziasse questa trasmissione, Pachita, di un articolo che ho avuto anche il piacere di leggere un po' di tempo fa su tuo suggerimento e che troviamo pubblicato su Educazione Aperta, che è una rivista di pedagogia critica, un articolo scritto proprio da Angelo Miramonti che si intitola, il cui titolo è Tre incontri di amore, morte e poesia, in cui racconta anche delle sue esperienze che ha vissuto nei laboratori a cui ha preso parte. Hai chiesto a lui anche di spendere qualche parola su questo nell'intervista che è stralciata stiamo mandando in questi momenti. Sì. Ascoltiamo la parte in cui gli chiedo dell'articolo. Sì, se vuoi e poi la commentiamo dopo Ok, assieme prima. vai. Mandiamo allora alla seconda parte dell'intervista di Angelo Miramonti, questo articolo io fra l'altro prima di mandarvelo ve lo consiglio tantissimo, a me è capitato di leggerlo e sono racconti emozionanti in vario modo, si parla di racconti personali che hanno a che fare con la vita cambiata dai pochi versi di magari un ragazzo molto giovane che incontra le persone per strada e propone di regalare una poesia in cambio di 20 minuti del proprio tempo. È sicuramente interessante, ascoltiamo cosa hai chiesto, ascoltiamo cosa ha risposto. Quindi, come dicevi prima, appunto, le arti per la riconciliazione, nelle arti per la riconciliazione c'è anche la poesia. Qui, Certo. quindi questo, mi piacerebbe parlare di questo articolo che hai pubblicato, che si chiama Desirlo Bonito, Tre incontri di amore, morte e poesia. E, quindi se ci vuoi raccontare uno di questi tre incontri oppure quello che vuoi, insomma. Sì, allora, come dicevo, nella costruzione di questo gruppo ci siamo ampliati dal teatro per la riconciliazione alle arti per la riconciliazione e quindi ci siamo messi tutti a imparare, a cercare persone che ci aiutassero con i loro saperi sulle varie arti. E ho avuto la fortuna di conoscere un poeta e animatore comunitario peruviano che aveva sviluppato già alcuni anni fa con il suo gruppo di collaboratori una tecnica per accompagnare persone, qualsiasi, a volte studenti di liceo, a volte anche altre persone adulte, anche ragazzini, diciamo, a scrivere poesie, no? Quindi l'idea è sempre quella di coinvolgere le persone il più possibile nell'essere produttrici di arte e non soltanto fruitrici di arte prodotta da professionisti. Quindi Sono andato a un laboratorio suo e mi ha colpito molto questo poeta animatore comunitario, si chiama Luis Enrique Amaya, no? E ha scritto finora 4 libri, alcuni poemari e un libro in particolare su questa tecnica che si chiama Poesia in vivo, no? La poesia dal vivo. E successivamente ho scritto questo articolo che adesso verrà, che ho pubblicato in italiano e verrà poi pubblicato in spagnolo come prefazione di uno dei suoi libri, che è una riflessione su quello che avevo osservato del suo lavoro. La tecnica è molto semplice, consiste nel... c'è un gruppo di persone che fa un laboratorio di poesia con Luis Enrique, e lui spiega come funzionerà il processo che verrà fatto per strada o in un luogo pubblico. Essenzialmente il gruppo si dividerà in due parti. Una parte saranno quelli che cercheranno di incontrare le persone e di invitarle a sedersi e a farsi scrivere una poesia, farsi dedicare una poesia. E l'altra metà del gruppo saranno invece i poeti e le poetesse, cioè quelli che scriveranno direttamente le poesie. Quelli che stanno per strada propongono alle persone, fermano le persone per strada e gli dicono: se ci regali 20 minuti del tuo tempo, noi ti regaleremo una poesia dedicata a una persona importante per te. Ok? E questo è una cosa abbastanza rivoluzionaria, perché chiaramente la gente anche in Colombia spesso ha fretta, eccetera, quindi non vuole fermarsi, deve andare. E quindi chiaramente chiede alla persona di fermarsi per 20 minuti in cambio di un regalo, no? Di un regalo, di una poesia scritta su un pezzo di carta, perché gli viene consegnata proprio fisicamente. Quando qualcuno accetta, la persona viene portata da una poetessa, da un poeta che è seduta aspettando, e si siede. Poi il poeta chiede alla persona: parlami di una persona importante per te, no? Una persona, può essere qualsiasi persona, una persona che non vede da tanto tempo, oppure una persona che membro della sua famiglia, un amico, una fidanzata, fidanzato, amante, eccetera. E gli fa alcune domande, no? Sull'aspetto fisico di questa persona, sul quali sono le occupazioni principali di questa persona, quindi che cosa fa, e poi gli chiede anche che cosa ti connette con questa persona, no? Qual è la cosa, il legame più forte che tu hai con questa persona, e alla fine di questa breve intervista gli dice: adesso fagli una confessione, no? Digli qualcosa che finora non hai potuto dirgli, o magari anche una persona già morta, e quindi digli una cosa che non hai potuto dirgli quando era viva, ma che gli vuoi dire adesso. E il poeta o la poetessa annota tutto di queste risposte. Poi gli dice: va bene, grazie, aspetta 10 minuti e ritorno da te, no? Quindi spesso le persone si mettono a chiacchierare, oppure ci sono anche alcune persone del gruppo che le intrattengono, eccetera, e la poetessa se ne va a scrivere la sua poesia, utilizzando esclusivamente quello che la persona ha raccontato. La persona che si è fermata ha raccontato di una persona a lei cara, per lei importante, ad esempio, non so, la nonna, quindi la poetessa ha tutte queste informazioni sulla nonna di questa persona e scrive una poesia utilizzando quello che ha annotato. Ovviamente cambierà tutto, utilizzerà soltanto delle parti, non seguirà necessariamente l'ordine dell'aspetto fisico, del che cosa si dedica alla confessione, magari ci sarà qualcosa che l'avrà ispirata, ma utilizzerà comunque le informazioni e, se possibile, anche le parole utilizzate dalla persona che è stata intervistata. In questo senso io ho intitolato l'articolo Decirlo Bonito, cioè dirlo in modo bello, perché il poeta o la poetessa utilizza le stesse parole della persona che è stata intervistata, ma le trasfigura attraverso la bellezza. Se la persona ha detto una frase di uso quotidiano, il poeta la la trasforma attraverso delle metafore, ma il significato è lo stesso. Quindi, oltre che dirlo bonito, per me è anche devolverlo bonito, no? Cioè restituirlo in modo bello, perché è qualcosa che ho ricevuto dalla persona e che gli restituisco trasfigurato, attraversato dalla bellezza di una parola altra, una parola metaforica, una parola che cerca la bellezza negli affetti quotidiani e nelle situazioni quotidiane delle persone. Il poeta scrive la poesia e poi ritorna dalla persona che è stata intervistata. Sono trascorsi normalmente 20 minuti, no? In tutto questo. La scrive su un pezzo di carta decorato che assomiglia a una pergamena. A volte abbiamo anche dei partecipanti che fanno gli scribi perché hanno una bella calligrafia, e quindi il poeta magari non ha una bellissima calligrafia, allora gli dice allo scrittore, gli dice: ecco, questo è il testo della poesia, scrivimelo bene. Quindi non è solo dirlo bonito, è anche scriverlo bonito. E quindi lo scrive e torna con la sua pergamena, con la poesia, dalla persona e gli dice: ecco la poesia per la persona a te cara. E gli dice: guarda che questa poesia non è per te, è per lei, no? È per questa persona cara. Quindi io non te la sto regalando perché tu la tenga con te, te la sto regalando perché tu gliela regali, no? E quindi in questo senso la poesia in vivo è una, come dice appunto Luis Enrique, il suo inventore, è una catena di regali, no? Perché io regalo, cioè tu mi regali 20 minuti del tuo tempo, io ti regalo una poesia, ma te la regalo perché tu la regali alla persona a te cara. E anche perché regalandola alla persona a te cara possano nascere dei dialoghi con questa persona, possa approfondirsi la relazione, possano chiarirsi delle cose, possiate crescere, no? come relazione. E quindi la persona riceve questa poesia, e se la persona è viva, è facile da raggiungere, la persona che ha ricevuto in regalo la poesia, cioè gliela regalerà. Gliela regalerà, e da lì possono nascere dei dialoghi, un incontro profondo mediato da questa parola altra, da questa parola che normalmente le persone non usano per relazionarsi tra loro nella quotidianità, e mediato anche da questo terzo o terza che è il poeta, la poetessa, no? Che è questo personaggio che appare in un certo momento nella vita di queste due persone, intervista, scrive una poesia e poi scompare. No? È molto raro che il poeta riveda le persone alle quali ha scritto poesie, ancor più raro è che il poeta conosca la persona a cui la poesia è stata dedicata, no? Quindi può capitare a volte, ma è molto raro. A volte le poesie sono anche dedicate a persone morte, no? Ad esempio noi abbiamo avuto una ex combattente che ha chiesto a un ragazzo dell'università, studente di teatro, di scrivere una poesia per il suo compagno che è stato ucciso, ma non è mai stato trovato il corpo. Quindi questo ragazzo ha scritto una poesia molto bella sul ricordo di questa persona, e quindi lei lo ha ringraziato molto. E che cosa faranno queste persone quando la persona a cui è dedicata la poesia è morta? Ci sono tante cose che fanno, a volte le mettono sulle tombe, a volte le tengono, o quando non c'è neppure la tomba, le tengono in casa, però le rileggono, a volte hanno come un altare personale dedicato alla persona morta, e quindi mettono la poesia. Quindi diciamo che la poesia crea un legame, che è a volte simbolico, a volte anche materiale, perché è possibile incontrare la persona e regalarle la poesia. Alcune poesie, come dicevo nel mio articolo, alcune poesie sono poesie legate alla morte, alla perdita, al lutto. Altre poesie invece sono dedicate all'amore, alla vita, a volte sono dedicate ai genitori, ai nonni, e a volte anche agli amanti. E Nell'articolo racconto la storia di un ragazzo, di un soldato tornato dall'addestramento che stava facendo e che amava una ragazza ma non era ricambiato, no, da questa ragazza. E mi chiese a me, io ero il poeta, mi chiese di scrivere una poesia dedicata a questa ragazza perché lui potesse regalartela, no? Perché potessero nascere un altro legame con questa ragazza che non solo rifiutava lui, ma in realtà rifiutava tutti gli uomini in generale, no? E tutte le relazioni in generale. E quindi poi appunto questa storia non la racconto perché preferisco che la si legga Sì, infatti volevo nell'articolo. dirtelo, non la Ecco. raccontare. Però l'idea è che la poesia prende, cioè il testo poetico prende vita propria dopo che è stato prodotto. Cioè il poeta non c'entra più nulla, non c'entra più nulla neppure la persona che ha richiesto quel testo, ma la poesia arriva alla persona, magari va su una tomba oppure viene regalata a un amante, non, diciamo, non a un amore non corrisposto. E magari la persona lì per lì la legge, però non succede nulla, no? E poi magari la poesia viene riletta a distanza di mesi, viene riletta, magari viene letta anche da altre persone, magari viene lasciata sulla tomba e una persona passando per andare a visitare altre tombe, la legge e c'è qualcosa che la ispira. Per questo credo che appunto questa parola altra, questa parola bella e metaforica sia come un grimaldello, una chiave che apre delle porte chiuse a volte dal dolore, dall'incomunicabilità o da tanti altri blocchi. In questo senso, per me la poesia, questo tipo di poesia è molto legato alla riconciliazione, no? Alla riconciliazione con se stessi, con gli altri e a volte anche con un passato, con una storia collettiva come quella della Colombia, estremamente pesante. Quindi l'esempio dell'ex combattente che chiede una poesia per il fidanzato, per il compagno desaparecido. È un chiaro esempio di come cioè un caso personale può riflettere una situazione collettiva di violenza. Per cui, e credo che quella poesia abbia mediato, abbia permesso un altro avvicinamento di questa donna ex combattente alla memoria della persona desaparecida. E quindi questo è il lavoro che facciamo con la poesia. Recentemente sono entrato in una rivista di pedagogia, soprattutto ispirata a Paulo Freire, al teatro di Augusto Boal, eccetera, quindi è una pedagogia critica e che si chiama Educazione Aperta. E con loro ho pubblicato in italiano questo articolo sulle esperienze di poesia comunitaria in Colombia, quindi è nel sito della rivista Educazione Aperta e lì si può leggere l'articolo che racconta appunto esperienze nei mercati della frutta con i ragazzi che scrivevano poesie alle signore che vendevano la frutta, esperienze per le strade, esperienze anche nei quartieri più violenti di Cali, della città della Colombia, quindi anche esperienze con adolescenti, membri di gang, eccetera. Quindi racconta dell'applicazione della poesia a contesti di marginalità e svantaggio sociale. E poi il nostro sogno come gruppo è di espanderci ancora e quindi di utilizzare questo metodo di creazione di poesie, per esempio nelle sale d'attesa degli ospedali, dove le persone magari sono in attesa di una diagnosi o devono aspettare, e mentre aspettano possa arrivare qualcuno che gli regala una poesia. Quindi quando tornano a casa, oltre ai loro risultati medici, possano tornare con una poesia. Oppure di lavorare con persone in contatto col sistema psichiatrico, sempre utilizzando la poesia, ovviamente con ex combattenti, con vittime, anche con vittime di violenza sessuale, con tanti gruppi con cui vorremmo sperimentare questo uso della parola poetica per dirlo bonito, per dire con bellezza qualsiasi cosa sia successa alla persona per accompagnarla nel vedere in modo diverso delle esperienze della sua vita. Vedremo, è una ricerca in corso, quindi non abbiamo conclusioni, ma abbiamo iniziato e questo è quello che vorremmo fare. Anche in Italia ci sarebbero tantissimi ambiti in Italia, in Europa, in cui si potrebbe lavorare con la poesia, soprattutto penso al mondo medico, alla psichiatria, magari anche alle malattie croniche degenerative. Tutti i luoghi dove la relazione con la persona malata è importante, no? E poi anche nel lutto, chiaramente il lutto, la perdita, e naturalmente l'amore di coppia, l'amore, insomma, tutto ciò che riguarda l'amore tra due persone. Sta calando qua, tutto Armando sta rimando. Armando sta arrivando, fischiettando, ma la spiaggia è ormai deserta ed il sole sta calando. Guarda là, c'è un po' di pioggia, non si vede neanche Foggia, non si vede neanche il mare. Dice Armando dalla nave, un campo pieno di grano, un contadino alza la mano. Armando, Armando, Armando, un uomo terra e amianto. Armando, Armando, Armando, un uomo terra e amianto. Ormigo, ormiga triste, no lloras todavía, no, sigue sufriendo el soñador cabrón. No lloras todavía, no, sigue sufriendo el soñador cabrón. Verso en una botella que no sea de vainilla, que no sea de licor, que no de este estupor. Si accende un cigarrillo, seduto su un navío, seduto en riva el fiume, que puzza de marciume. Un mar lleno de fango, un pescador. E balla un tango, Armando, Armando, Armando, sparisce come d'incanto. Armando, Armando, Armando, un uomo, un fiume, un canto. E Armando ormai è sparito, sparato un po' sfinito, raccoglie mandarini in un prato fiorito, sfiorisce la sua mano, un petalo lontano, che ondeggia sopra il vento, che balla quasi in vano. Un tronco senza la chioma, lo chiama e c'è ancora. Armando, non te ne andare, fatti valere e non mollare. Armando, non te ne andare, fatti vedere e non tornare. E Armando canta, Armando le, Armando poi, Armando crede che la vita è su gran ciste, e tu ormigo, ormiga triste. No lloras todavía, no, sigue sufriendo el soñador cabrón. No lloras todavía, no, sigue sufriendo el soñador cabrón. Todavía no, sigue sufriendo el soñador cabrón. E buonasera, buonasera a tutti, bentornati all'ascolto di questa domenica in diretta su Radio Wombat. Per chi si fosse sintonizzato da poco, magari per la diretta delle 19, adesso state ascoltando invece Poi UIT Lettere Contrarie, la trasmissione dedicata alla letteratura di Radio Wombat. È successo infatti che oggi abbiamo un po' scombinato il nostro palinsesto proprio per dare spazio a un'altra diretta, quella che è stata fatta oggi pomeriggio dalle 15 dal mercato di Piazza Santo Spirito. Adesso invece abbiamo sentito poco fa la prima parte dell'intervista realizzata da Paquita ad Angelo Miramonti. Paquita è sempre qui con noi, ciao Paquita. Ari ciao. E beh, è tua anche la selezione musicale di oggi in questa puntata di Poi UIT. E che canzone abbiamo appena ascoltato, Armando? Allora, abbiamo ascoltato una canzone dei Macardia, gruppo poco conosciuto del sud. È una canzone per ricordare lo sfruttamento dei braccianti. Proprio ieri c'è stata una manifestazione a Prato, ricordo di questo. E Armando è il nome di Mohamed, il nome di Ali, il nome di tutte le persone che lavorano e che a volte non vengono nemmeno chiamate col loro nome vero dai padroni e vengono sfruttate. Questa canzone è per ricordare queste persone e per non dimenticarci che questo tipo di sfruttamento è sempre... sta esistendo purtroppo, c'è da tanto tempo ed è sempre attivo. Come dicevo prima all'inizio di questa puntata, Paquita è una delle iniziatrici del laboratorio teatrale Post Work che si svolge, anzi diciamo che si svolgeva prima del periodo di confinamento, in Polveriera. Abbiamo un po' detto che cosa vuol dire fare attività teatrale in uno spazio sociale, ma ci vuoi un po' parlare anche brevemente magari della storia di questa iniziativa? Sì, allora, intanto prima non ho detto perché si chiama Laboratorio Post Work, come siamo arrivati a questo nome, perché abbiamo pensato che il dopo lavoro è stato sempre un momento importante, è stato sempre un modo per confrontarsi ed è importante avere uno spazio e il tempo per vedersi, e molto spesso nella società in cui viviamo questo spazio e questo tempo ci viene tolto e noi lottiamo per conquistarlo. Per questo il laboratorio in Polveriera diretto a tutte le persone, sia a chi ha già fatto teatro sia a chi non l'ha mai fatto, proprio per avere uno scambio. E l'idea di chiamarlo così in inglese è per far avvicinare persone che magari non sono italiane. E come dicevo prima, siamo io e Andreas che l'abbiamo pensato questo tipo di laboratorio, perché dalle nostre esperienze avevamo avuto tutte e due difficoltà e quindi abbiamo un po' unito quello che abbiamo vissuto, e lui parla molto bene inglese, meglio di me, e quindi spesso lui si è trovato a tradurre quello che facevamo in inglese, perché il nostro laboratorio, che come dicevi tu è stato interrotto dal Covid, da quando la Polveriera è stata chiusa, però fino a quando c'è stato univa persone di varie nazionalità. Infatti avevamo mandato anche in radio una poesia con tutte le voci di chi ha partecipato, quindi da una persona della Polonia, una persona della Colombia. E una cosa che ti volevo raccontare, Marco, sì, sono tutte ricche, è che un giorno c'era un ragazzo marocchino che mi ha chiesto una cosa, e io gliel'ho spiegata un po' meglio, perché non riuscivo a spiegarmi bene, e lui l'aveva presa un po' male, nel senso che mi ha detto no, ma solo perché io non sono italiano, quindi non capisco. E io gli ho detto ma guarda che lui è greco, lui invece è del Sud America, quindi in realtà ci siamo resi conto in quel momento di questa potenzialità, perché di italiani, cioè, ce n'erano pochi, e lui non si è sentito più in difficoltà, perché spesso quando le cose non erano chiare non era più un problema, come se lui fosse l'unico diverso. E quindi ora mi è venuta in mente questa cosa. Sì, hai fatto benissimo a raccontarla, infatti. Grazie, io so che peraltro comunque oltre alla poesia, Letta a più voci di cui hai parlato, anzi so perché ho avuto anche il piacere di trasmetterle, avete registrato un sacco di altre cose anche qua per Radio Wombat, comunque col gruppo del laboratorio teatrale che abbiamo sentito in questo periodo di confinamento, ma anche tuttora sono alcuni spot come quello sì. Che è andato in apertura di questa stessa trasmissione. Sì, gli spot che ha fatto più che altro Andreas, perché è stato un po' più creativo in questo periodo di Covid, e invece, come appunto dicevo prima, abbiamo avuto difficoltà perché abbiamo continuato a vederci sulle varie piattaforme virtuali, ma è successo che questa diversità, che è una ricchezza, ha creato però con il Covid delle lontananze molto complicate, nel senso che una ragazza si è ritrovata a Parigi, un altro ragazzo è tornato a Milano, e, un altro ragazzo appunto marocchino addirittura ha avuto il foglio di via perché è stato trovato senza documenti, e quindi storie poco piacevoli, e purtroppo attualmente siamo un po' tutti sparsi nell'Italia. E quindi abbiamo continuato un po' a vederci in streaming, a sentirci, ma noi siamo per un teatro insomma di persona, quindi speriamo presto di ritornare a fare qualcosa insieme e di ritornare ad aprire la polveriera, perché... E lo speriamo decisamente tanto anche noi, e ovviamente seguiremo. Nel frattempo però tu mi avevi portato un audio da mandare. Sì, sì, ti avevo mandato un audio per spiegare una cosa, nel senso che io e Andreas abbiamo avuto questa idea di fare il laboratorio di teatro precisamente ad un festival di musica organizzato da Vinicio Capossella che si chiama Spons. Spons significa sponsarsi, cioè rilassarsi, prendersi il proprio tempo, e infatti in questo festival succede un po' di tutto, tra cui un laboratorio che io ho fatto insieme alla mia amica Laura Remaschi sulla restanza, cioè sul restare in un posto per cambiarlo. Quindi la restanza è un concetto sviluppato dall'antropologo Vito Teti, che propone proprio questo, cioè di restare al sud, per esempio, che può essere il sud Italia o il sud nel mondo, ma restare per cambiarlo, quindi informarsi, andare anche fuori, ma poi ritornare per non abbandonare i posti. E infatti questo festival è fatto in un paesino, Calitri, che è vicino proprio al paesino di cui fa parte questo gruppo, tra l'altro, che abbiamo ascoltato prima la canzone Macardia, sì. Macardia, che nel dialetto locale significa magari addio, cioè speriamo che le cose riprendano, Macardia. E sì, piccolo aneddoto. E insomma, in questo sponsor, adesso arriviamo al punto, ci siamo quasi. Abbiamo proprio detto ok, facciamo questa cosa, abbiamo questa esigenza. Poi questo magari Andreas ve lo spiegherà meglio nella prossima puntata. Sì, approfittiamo per annunciare infatti che domenica prossima avremo ospite l'altra voce di Postwork, Andreas, sì. Esatto. E in questo festival perché mi ha colpito molto? Non perché Vinicio mi paga per fare pubblicità, assolutamente, ma perché il festival era incentrato sulla festa e sulla peste. E a questo punto manderei quest'audio. Sentiamo. Si affidarono alla peste. Si cercarono untori e capri espiatori, alibi inconsci quasi a colmare un senso di angoscia e vuoto esistenziale. Si invocò la croce non per il principio di carità, ma di appartenenza. E se stasera pure parleremo di speranze, sarà solo dopo aver contratto il contagio delle pestilenze. e peste sia. Peste sia. Peste sia. E peste sia. E peste sia. E peste sia. E peste sia. E peste sia. E peste sia. E mo scatenatevi. Coraissa. Ai. Bello quest'audio. Sì, un po' inquietante. Un po' inquietante, dicevi. Sì. Dicevo a microfono spento, sì. Ecco, tu immagina che io quest'estate ero lì, che si parlava di peste, e al concerto distribuivano le mascherine, queste famose mascherine che poi abbiamo visto protagoniste negli ultimi mesi. E infatti io ne avevo una proprio perché ce l'avevo, mia mascherina nera, proprio perché ce l'avevo da questo festival. E guarda caso le coincidenze, uno parla di peste e poi la peste arriva. E questa peste, parlo di coincidenze perché appunto anche l'incontro mio e di Andreas è nato da una coincidenza. E poi perché questo, appunto, questa peste e questo festival, questa annunciazione, diciamo, in un certo senso, di un periodo che forse sarà un periodo per ripartire tutti insieme con una nuova normalità. Queste sono parole forse che sentiamo un po' tutti, però forse questa peste ci aiuterà a eliminare delle cose che non funzionano più. Però questa peste ha interrotto, come dicevo prima, il nostro laboratorio, che poi è continuato un po' in streaming, e in streaming c'è stato anche questo incontro del 2 maggio, cioè un incontro virtuale che ha unito tantissime persone, tra cui Angelo Miramonti, di cui parlavo prima, ma anche tanti formatori e tante persone che fanno teatro, per ricordare praticamente la morte dell'educatore brasiliano Freire e di Augusto Boal, di cui parlavo prima, del Teatro dell'Oppresso, perché praticamente questa coincidenza è stata che loro sono morti a 11 anni di differenza, lo stesso giorno, che è il 2 maggio 2020. E quindi io ho chiesto qualcosa in più su questo incontro, che è durato tutto il giorno, ho chiesto qualcosa in più ad Angelo Miramonti. Quindi se vogliamo possiamo ascoltare questo. Subito. Allora, la seconda domanda era sul teatro invisibile. Io credo che sì, ha molti aspetti in comune, perché riconquista lo spazio pubblico con l'arte e con la trasformazione interpersonale. Quindi lo fa in modo diverso, ma comunque in modo complementare, secondo me. È un lavoro che si fa improvvisando, cioè nel teatro invisibile non possiamo sapere come reagiranno le persone alla scena che gli viene presentata e che loro non percepiscono come scena, ma percepiscono come realtà sociale. Allo stesso modo non possiamo assolutamente sapere che tipo di poesie ci chiederanno, qual è la loro relazione con questa persona, magari una relazione d'amore o magari una relazione estremamente burrascosa, difficile, magari anche una relazione conflittuale. Quindi dobbiamo reagire a quello che ci arriva senza molto tempo per pensarci. Quindi quello, esattamente come nel teatro invisibile, la scena iniziale viene preparata prima, tutto il resto viene improvvisato rimanendo fedeli ai propri personaggi. Quindi anche nella poesia credo che dobbiamo avere questa serenità di ascoltare, accogliere e restituire quello che abbiamo ascoltato in modo assolutamente non previsto e non prevedibile. la persona che mendica è un rituale e sta mendicando di essere ascoltata, non chiede soldi ma vuole essere ascoltata, ad esempio, oppure sta mendicando un abbraccio, no? Noi rompiamo il rituale mantenendo alcuni aspetti del vecchio rituale, per esempio la voce cantilenante, il fatto di mendicare, eccetera, no? Però lo rompiamo, no? E alla stessa maniera credo la poesia utilizza, per esempio lo stand utilizza l'occupazione temporanea dello spazio e uno dice, boh, staranno vendendo delle cose oppure raccolgono offerte per una organizzazione, e invece no, lì è uno spazio di gratuità, però che replica un rituale, no? Cioè stiamo fermando la gente per strada, però dicendogli guarda che questa volta non ti chiediamo soldi, ti chiediamo due cose, il tuo tempo e poi una cosa molto più preziosa del tempo, racconto la tua parola su una persona importante per te, quindi se vuoi di aprirti a raccontarci qualcosa di una persona che tu sceglierai. E questo, quindi sì, c'è una complementarietà ed elementi in comune, e in modo particolare io credo quando andiamo in spazi di marginalità sociale è rivoluzionario scrivere poesie in luoghi di violenza, in luoghi di povertà, in luoghi di o anche semplicemente di luoghi popolari come il mercato, eccetera. Quindi è rivoluzionario non essere di fretta, chiedere alle persone di fermarsi una volta e di parlare di qualcosa di importante. È rivoluzionario non chiedere nulla in cambio che non sia l'esperienza stessa, e quindi sì, è un'altra rivoluzione, è un altro modo di sovvertire alcune regole non scritte della nostra società che a volte diventano estremamente oppressive. Credo che l'esperienza che abbiamo avuto in America Latina con la poesia ha mostrato anche le oppressioni delle persone nell'incomunicabilità, nella difficoltà di dialogare, nella difficoltà di trovare tempo per le persone amate, per le persone importanti. Quindi credo di sì, e credo che non sia solo un processo interiore che rischia di essere intimista, ma che trasformando delle relazioni individuali può trasformare la società stessa, no? può riconnettere le persone ad altre parti di sé. E poi appunto non l'ho mai sperimentato personalmente nell'insegnamento ad esempio della letteratura a scuola, però chiaramente se fossero laboratori di poesia dove gli studenti e le studentesse si scrivono poesie e quindi scoprono che la poesia non è studiare, interpretare testi che magari del passato perché qualcuno ha deciso che un programma scolastico dovesse includere quella poesia, ma è lo stessi produttori di poesia, e poi magari confrontare le loro poesie con poeti che a loro piacciono, no? Che loro, portare sì, magari una poesia scelta da loro e poi scrivere una poesia loro, no? E poi mischiare questi testi per riconoscersi tutti umani, tutti artisti, tutti creatrici e creatori, e quindi per riportare la letteratura alla vita, riportare la scuola nella società, no? Quindi anche quello è un elemento di rivoluzione pedagogica, diciamo, no? E che poi può, riconnettendo una persona con la sua creatività, col fatto che lei ricrea il mondo attraverso la... Aspetta che ora non ti sento. Accompagnare le persone a diventare se stesse. Pronto? Sì, ti sì. Sento un po', ecco. Un po' male e ho sentito fino a attraversa il mondo. Sì. E quindi... Uh-huh. Sì, mi senti? Sì, ora sì. Ecco, proviamo. E quindi anche nella scuola può essere una rivoluzione pedagogica, no? Accompagnare le persone a divenire ciò che sono, anche attraverso la creazione, cioè che le ragazze e i ragazzi a scuola siano creatrici e creatori e non soltanto, come dire, fruitori di una bellezza che a volte per loro non è neppure bellezza, di noia, e soprattutto che non hanno prodotto loro, ma che ha prodotto qualcun altro, e che appunto un programma scolastico prevede che questo qualcun altro sia un poeta e quindi vada a studiare. Quindi diciamo sovvertire un po' e integrare in questi programmi la co-creazione con gli studenti, come poi metafora della co-creazione nella vita, no? Quindi che non, io non ricevo le cose da fuori, dall'alto e da fuori, da qualcuno che me le cala in testa, ma io le creo dal basso, da dentro, da me, e a partire da me posso arrivare fino ai confini del mondo, no? Posso ricreare il mio mondo anche attraverso la parola scritta e orale, insieme agli altri. Ecco, questo è anche molto importante. È un processo comunitario, un processo di poesia comunitaria, dove il poeta non è da solo, no? Non scrive rinchiuso, no? Non c'è nulla di male nello scrivere rinchiusi, però è un modo, no? E questo è un processo dove il poeta magari scrive poesie a una persona che ha incontrato per la prima volta, che non rivedrà mai più, no? Quindi sono poesie nate nella strada, nate nei luoghi della quotidianità, a volte anche nei luoghi della violenza, e quindi che riflettono profondamente la società e sono specchio di questa società, della sua bellezza, della sua violenza, ma anche uno specchio che trasfigura, uno specchio che suggerisce altri mondi, no? Proprio perché anche la parola violenta, anche l'insulto viene attraversato e trasfigurato da una parola altra, no? Io lo dico sempre ai partecipanti che un bel po' della poesia si è dedicata alla violenza, e tutta la poesia epica alla fine è, dall'Iliade in avanti, è poesia di guerra, è poesia di insulto al nemico, di massacri e quant'altro, quindi che la violenza è stata oggetto della poesia moltissimo, quindi non dobbiamo avere paura di scrivere poesie che contengono anche la violenza. E allo stesso modo l'amore, la sessualità, eccetera, cioè la poesia erotica esiste da altrettanto tempo, quindi ancora una volta riconnettere amore, morte, guerra, sesso nella parola poetica è un modo per riconnettere le persone con tutto l'umano senza aggettivi, con il riconoscere che anche che la violenza non viene giudicata, ma che si viene restituita attraverso una parola di bellezza. Questo aiuta a prendere una distanza, a vedersi attraverso quella parola di bellezza, a riconoscere che tutti i propri sentimenti sono legittimi, e da questo nasce, a volte mi è sembrato, in queste mie esperienze mi è sembrato che nasce una consapevolezza, un riconoscimento di se stessi, quando sono arrabbiato, quando odio, quando sono geloso, quando sono triste, quando sono innamorato, quando sento attrazione sessuale, quando voglio vendicarmi. Tutto questo è stato oggetto della poesia da almeno 2500 anni, probabilmente di più. Quindi credo che questo sia anche riconoscere, non lo so, una scena di bullismo e poi riconoscerla nell'Iliade, riconoscere che nell'Iliade c'è il bullismo, no? E che io posso scrivere una poesia dedicata a una persona che una volta era un amico e adesso è diventato una persona che mi bullizza, o una persona che fa parte di una gang avversaria, eccetera. Che tutta questa parola di violenza e anche di frustrazione è una parola che si riflette in poesie in tutte le epoche, no? Quindi io credo che ricondurre l'esperienza dell'individuo, della persona, alla poesia universale di tutte le culture, di tutte le epoche, è un modo per far sentire a questa persona che la sua esperienza si riflette nell'esperienza dell'umanità, no? Che tutti i suoi sentimenti sono l'umano senza aggettivi. E questo accade tra l'altro anche nel teatro, dove nella commedia e nella tragedia vediamo storie d'amore, di sesso, di violenza e di, a volte di vendetta, che riflettono e mettono in scena e permettono di vedersi riflessi, vedere i propri sentimenti riflessi nelle azioni che sono in scena. Quindi in questo senso la poesia è molto vicina al teatro e peraltro nella declamazione orale delle poesie ci può essere spazio anche per il monologo teatrale, quindi il monologo può incontrare la poesia nell'oralità, no? Quindi anche questo è un elemento importante. Quindi sì, credo che il teatro invisibile sia un parente stretto, insomma, della poesia fatta per strada, anche per la riconquista degli spazi collettivi, soprattutto per una riconquista dell'arte di spazi che normalmente l'arte, diciamo, elitaria, professionale, non vuole incontrare. Quindi l'artista tendenzialmente non va in carcere, non va a scrivere poesie con i carcerati, non va in centri di salute mentale, non va al cimitero, non va al mercato, non va per strada quando la gente fa le vasche in centro, non va in libreria, non va, a volte non va neppure a scuola. Quindi questi sono tutti spazi, per esempio a scuola non lo farei nelle classi, ma lo farei nel cortile della scuola, magari anche negli intervalli, eccetera. Quindi spazi altri rispetto a quelli dell'insegnamento canonico dell'arte, ecco. Sì. Sempre in diretta su Po You It nella domenica culturale di Radio Wombat. Beh, Pakita, sarà una coincidenza il fatto anche che dopo tutto abbiamo un po' sbagliato questo audio e non abbiamo messo effettivamente quello dell'incontro di cui parlavamo del 2 maggio. Sì, allora, l'incontro in sintesi era semplicemente per parlare della possibilità che c'è stata durante il lockdown di incontrarsi lo stesso, di quanto questi alla fine mezzi che a volte non tutti amano sono utili e hanno permesso di fare qualcosa e di unirsi in una data particolare. Comunque tutto questo in realtà c'è su internet, sia su vari social, quindi magari poi mettiamo il link. Sì, in descrizione del programma sicuramente. Sì, mettiamo il link, ma appunto quello che invece avete ascoltato era sempre Angelo Miramonti, che però continuava a parlare della poesia in vivo e delle differenze che ci sono col teatro invisibile, anche della possibilità di dove fare questa esperienza. Pensandola anche a Firenze oppure in un altro posto, in che luogo fare questo esperimento, ecco. Metteremo anche il link all'articolo di cui parlavamo prima di Desirlo Bonito. Sì. E, invece, però, per salutarci non facciamo un vero e proprio saluto, facciamo un arrivederci, Pakita, la prossima settimana. Sì, è un arrivederci perché io vi ho detto solo alcune cose del laboratorio, ma la prossima settimana ci sarà Andreas che parlerà un po' più del lavoro che abbiamo fatto, di quello che stavamo facendo che poi si è interrotto e magari anche di quello che vogliamo fare in futuro. E c'è una cosa che volevo far sentire, anzi due cose. Pronti. grazie. Che bello avere una persona così preparata che fa le cose, bellissimo. Qui per questo. E uno è un saluto di Raiss che ha fatto a questo festival di cui vi parlavo e che è un augurio che io voglio fare a tutti e a tutte. E l'altra è la canzone dei Sic Tamburo che parla del fare rumore. E il fare rumore io lo intendo come un modo per farsi sentire. In questo momento in cui tutti ci dicono quello che dobbiamo fare, come lo dobbiamo fare, e quindi ancora siamo in fase 3 e non si sa se fasi quando finiranno, e già chiamarla fase insomma mi sembra un'imposizione. Comunque in questo momento io auguro a tutti di cercare il proprio modo di esprimersi per fare rumore. E allora con questo noi ci salutiamo, l'appuntamento è a mercoledì prossimo alle 15.30 sempre con Andreas. Intanto stasera avevamo Paquita del laboratorio Post Work, a risentirci allora presto, da stasera il podcast sul sito della radio. Canzone del rumore che rompe schemi ed ordini mentali. Questa è la canzone del rumore che fa paura a chi non sa ascoltare. Questa è la canzone per saltare. Dall'alto puoi vedere quel che vale. Libero rumore tra la gente. Canzone del rumore che rompe schemi ed ordini mentali. Questa è la canzone del rumore che fa paura a chi non sa ascoltare. Questa è la canzone per saltare. Dall'alto puoi vedere quel che vale. Libero rumore tra la gente.